5 novembre de Il giornalino di Gian Burrasca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni di LibriVox sono di pubblico dominio. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Riccardo Fasol. Il giornalino di Gian Burrasca, di Vamba. 5 novembre. In questi giorni non ho avuto un minuto di tempo per scrivere nel mio caro giornalino, e anche oggi ne ho pochissimo, perché ho da fare le lezioni. Proprio così, si sono riaperte le scuole, e io ho messo giudizio, e voglio proprio studiare sul serio e farmi onore, come dice la mamma. Con tutto questo non posso esimermi di mettere qui, nel giornalino delle mie memorie, il ritratto del professore di latino, che è così buffo, specialmente quando vuol fare il terribile e grida «Tutti zitti, tutti fermi! E guai se vedo muovere un muscolo del viso!» Per questo noi altri, fino dai primi giorni, gli abbiamo messo il soprannome di Muscolo, e ora non glielo leva più nessuno, campasse mill'anni. In questi giorni in casa nulla di nuovo. L'avvocato Maralli va sempre migliorando e tra un paio di giorni il dottore gli sfascerà l'occhio e gli permetterà di riveder la luce. Ieri venne in casa una commissione del Partito Socialista per rallegrarsi con lui della guarigione e c'è stato un po' di battibecco tra la mamma e il babbo perché la mamma non voleva lasciar passare questi eresiarchi, come li chiama lei, e il babbo invece li fece entrare in camera dell'avvocato che mi fece proprio ridere perché disse «Sono molto contento di vedervi!» mentre invece erano tutti al buio. Basta. Dopo che furono andati via, il Maralli, parlando col babbo, gli disse che proprio era felice di avere avuto in questa circostanza tante manifestazioni di stima e di simpatia dalla cittadinanza. E pensare che sul principio, a sentir quelli di casa mia, pareva che l'avessi ammazzato. Fine del 5 novembre.